5B. Ascolta e rispondi. Telefonerete alla segretaria? Certo che le telefoneremo. Scriverete alla professoressa? Certo che le scriveremo. Risponderete a Maria? Certo che le risponderemo. Parlerete alla direttrice? Certo che le parleremo. Che cosa chiederete alla signora oggi? Oggi le chiederemo solo un consiglio. Che cosa offrirete alla ragazza oggi? Oggi le offriremo solo qualcosa da bere. Che cosa consegnerete a vostra figlia oggi? Oggi le consegneremo le chiavi di casa. Che cosa darete alla padrona di casa? Oggi le daremo la fotocopia di un documento.